una sedia, possibilmente dura, però in questo momento magari siete su una sedia morbida, pazienza. Avete portato l'attenzione su quello che è l'appoggio? Sono due ossa, si chiamano ischi. E non ditemi che avete il sedere troppo grande per sentirli, si sentono, concentratevi su quelle due ossa. Allora, mettete le mani sul bacino. Vediamo un po', abbiamo detto di allineare che cosa? Bacino, colonna vertebrale, spalle, collo, testa. Mettiamoli insieme. Se il bacino, che è la base d'appoggio, non è bene in equilibrio, come facciamo ad allineare tutto quanto e ritrovare il nostro equilibrio posturale? E allora, con le mani sul bacino, sentite le posizioni che può assumere. Se noi ci portiamo un pochino indietro, bacino, bacinello, immaginate una bacinella che si inclina indietro, si cade indietro col corpo, non va bene. Ci riportiamo nel centro, facciamo perno su queste ossa e andiamo in avanti col bacino. Avremo il sedere un po' troppo in fuori, sentite che cadete in avanti. Adesso oscilliamo pochino pochino fino a trovare una posizione di equilibrio sugli ischi. Tutta la posizione seduta, la postura corretta della posizione che stiamo assumendo dipende da come è messo il bacino. Inutile pensare ad altre cose. Adesso abbiamo trovato il bacino allineato, né troppo in avanti, sedere in fuori, né troppo indietro, sedere che scende. Abbiamo trovato la posizione centrale e andiamo a mettere le due mani sopra la testa. Abbiamo la bacinella sotto che è in equilibrio. Immaginate quelle persone che portano i pesi sulla testa. In espirazione, quindi soffiando fuori l'aria, spingete in giù con le mani e intanto spingete la testa verso l'alto, come se voleste andare oltre le vostre mani. E rilassate. Mentre espirate, fate questa spinta, abbassate le scapole, tutte e due le scapole le portate giù e insieme andranno le spalle. E rilassate. Adesso mettiamo insieme tutto. Le due mani le appoggiate sulle cosce. Spingete in giù le mani, così sentirete meglio le spalle scendere. Espirate, tiratevi in alto. Abbiamo la bacinella che tiene l'equilibrio, le vertebre che prendono spazio, il collo che si riallinea perché anche la testa ha trovato il suo allineamento con il bacino. E rilasso. E concludiamo sentendo gli addominali e anche il respiro. E allora le mani le mettiamo dietro la gabbia toracica. Prima di fare qualsiasi cosa, espandete il respiro. Inspiro dal naso ed espiro, sentendo che la gabbia toracica si espande. E infine, di nuovo le mani sulle cosce. Espiro, risucchiando i muscoli addominali, immaginando che le due mani mi spingano in giù la testa, immaginando di spingere in giù le spalle, risucchio bene gli addominali e rilasso. Lo ripeto un'altra volta, soffio fuori l'aria, spingo in giù con le mani, allungo, allungo, allungo, allungo, allungo, allungo, allungo il collo, rilasso. E rilasso il corpo mantenendo una tensione intermedia, lo sentite che siete tonificati, avete sentito di più i vostri muscoli ma non siete rigidi, perché dovete sempre mantenere la tensione anche al respiro. Che ne dite? Potete mantenerla?